Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È il volume 2, ovvero sia la seconda parte di Eclettica ogni settimana qua sulle frequenze di Rock FM in compagnia di Giulio Caperdoni. Benvenuti, benvenuti, e oltre ad accogliervi vi do anche le informazioni su come mantenere il contatto quando le trasmissioni non sono in onda. Giulio@radiorockfm.com è l'indirizzo di email da utilizzare anche per iscriversi alla lista nera, e myspace.com/eclettica invece il sito con tutte le informazioni di dettaglio. Mi chiamo Howard W. Campbell Jr. Ho fama di nazista. Sono americano di nascita e apolide per inclinazione naturale. L'anno in cui scrivo è il 1961. Voglio dedicare questo mio libro al signor Tuvia Friedman, direttore dell'Istituto per la documentazione dei crimini di guerra di Haifa, e a chiunque altro possa interessare. Perché al signor Friedman dovrebbe importargli qualcosa di questo libro? Perché sull'uomo che lo sta scrivendo grava il sospetto che sia stato un criminale di guerra. Questo era l'incipit di Madre Notte di Kurt Vonnegut.

Dopo le armonie alla Beach Boys dei The Bears and Lakes e la musica che definirei grassa dei Transam, è arrivato il momento clou perlomeno di questa parte di Eclettica. Un momento clou che era stato anche anticipato in Lista Nera, e quindi prendo anche l'occasione per sottolineare come la Lista Nera non serva solo per avere automaticamente nella vostra casella di posta ogni weekend la playlist della settimana che si sta chiudendo, ma anche quella di ricevere delle anticipazioni su quanto potrà succedere. E infatti in questo weekend vi ho raccontato di come io mi sia innamorato di un disco in uscita nel prossimo mese di maggio, un esordio a nome Windmill, e quindi del fatto che questo avrà come conseguenza un ascolto ripetuto anche da parte vostra e non solo di un brano. Windmill, già vi ho detto, è il nome del progetto. Viene presentato come un gruppo, ma all'interno di questo gruppo c'è un solo punto fermo: Matthew Thomas Dillon. Poi i componenti del disco, i componenti della band live sono completamente diversi, quindi direi che tutto ruota attorno a lui. Matthew Thomas Dillon, Windmill, che ci ascoltiamo con Fit. Yeah. È tutto accaduto, più o meno. Le parti sulla guerra, in ogni caso, sono abbastanza vere. Un tale che conoscevo fu veramente ucciso a Dresda per aver preso una teiera che non era sua. Un altro tizio che conoscevo minacciò veramente di far uccidere i suoi nemici personali, dopo la guerra, da killer prezzolati. E così via. Ho cambiato tutti i nomi. Io ci tornai veramente a Dresda con i soldi della Fondazione Guggenheim, Dio la benedica, nel 1967. Somigliava molto a Dayton, nell'Ohio, ma c'erano più aree deserte che a Dayton. Nel terreno dovevano esserci tonnellate di ossa umane. Ci tornai con un vecchio commilitone, Bernard V. O'Hare, e là facemmo amicizia con un tassista che ci portò al mattatoio, dove rinchiudevano di notte i prigionieri di guerra. Questo era l'incipit di Mattatoio numero 5, di Kurt Vonnegut. Pronto! Pronto, parlo con Severino Cicerchia, detto lo scoreggione. State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia. Pronto. Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti. Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento? Pronto, ma chi fossi? Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case. Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla. Ma io non sono biondo. Allora mi ricordo fortemente la faccia.